Allora, buongiorno a tutti. Dalla prossima settimana cominciamo allora queste ore extra, quindi saranno messe quando ci sarà possibilità di avere un stato, sostanzialmente. Quindi magari saranno disagevoli, ma è colpa di suo. Si può venire dietro, si può venire dietro. Si consiglierà di venire. Anche a me ti sarei bocciato. Lo dico in modo molto non incantatorio, no? Allora, dal capitolo 20 andare avanti, uno, due, tre, quattro, cinque, è il capoverso, è il secria, ne che scosso la due dire, è buon garso. 180. Magari ho aperto un pochino la finestra, anche se fa un pochino più possibile, perché qui si soffre. Apro un pochino. Ecco, grazie. Quanto è alto lei? 2 metri? Quanto? 1,98. Lascio un pochino aperto. Allora. Ma vado a noi in questa storia che stiamo raccontando, in questa bellissima storia, viene a un certo momento a sapere dell'adulterio del marito. Adulterio è veramente una parola del tutto sproporzionata, perché il marito corre, come si suol dire, faranno tutti in più per questo intervento. Come la cavallina, e viene a sapere tutto questo, e c'è una sfuriata coniugale da parte di lei nei confronti di lui. Frederica arriva mentre c'è questa sfuriata, lei è naturalmente imbarazzata, cerca di giustificarsi, e lui in che posizione si trova? In una posizione molto difficile, perché cerca di, per motivi di correttezza, di buona educazione, di difendere il marito. Se due leticano fra di loro, uno cerca di difenderlo, ma se lei è così furiosa nei confronti del marito, lui forse non potrebbe approfittarne, perché insomma il punto è questo. Se uno il proprio oggetto di desiderio non riesce a conquistarlo con atti di forza, con sua forza personale, no? Allora deve fidarsi della debolezza altrui, cioè deve fidarsi del fatto che il marito sia uno scazzone. Se io cerco di sedurre una donna, ma questa non ci sta, una mia speranza è che questo, rivelatosi come mascalzone, induca la donna a cedere. Se non che quello che chiunque di noi penserebbe, alla faccia della tante delicatezze, cioè a un certo punto io ho un'unica occasione, d'accordo, per Frederick è molto più difficile da cogliere. Perché? Perché è un uomo onesto, questa è la prima spiegazione. Ma attenzione, perché queste sottigliezze sono quelle che ci vengono richieste dall'autore stesso, no? Quando era convinto che appunto le infinite sottigliezze che aveva messo nell'educazione sentimentale non potessero essere colte dal comune lettore, non è solo questione di onestà, è anche questione di codardia, è anche questione di insicurezza. Lo ripeterò ogni volta questo fatto. Il personaggio è una straordinaria complessità, perché non è vero che non sia onesto, e quindi non vuole ovviamente approfittare della debolezza del suo rivale. È onesto, ma è anche codardo, è anche inarrestabilmente, come diremmo noi, in un linguaggio giovanile qui a Roma, è anche imbranato, no? C'è qualcuno di voi che non sa che cosa vuol dire la parola imbranato? Lo sapete tutti, lei lo sa cosa vuol dire. È imbranato. Quindi non sa come esprimersi. Gli è fuori allora un personaggio da un certo punto di vista comico. E allora ecco una svolta critica abbastanza interessante, perché nessuno nella lunga e enorme, come potete figurarvi, tradizione critica sull'educazione sentimentale, ha mai messo in evidenza che l'irresistibile voglia di Flaubert di prendere in giro il mondo, di scherzare, di ironizzare su tutto, coinvolge anche i personaggi principali, ma in un modo molto delicato. Coinvolge Madame Arnoux, abbiamo già visto che questa pesantezza, questa sua anche mancanza di fantasia, no? Viene messa in rilievo, quindi è un personaggio sotto un certo riguardo anche comico. E perfino il protagonista, che dovrebbe essere al di là di ogni comicità, gli altri sono oggetti di scherno, anche lui è comico. Ma perché un salto di questo genere? Perché se Frédéric è lui stesso, è chiaro che prende in giro se stesso immaginando, ecco come mi comporterei io nei panni di Frédéric. Questa idea dell'umorismo imperante è molto importante. Ve l'avevo già detto quando vi avevo letto alcune cose di Flaubert inizialmente, alcune sue massime, per così dire, no? E vi ho detto questo: lui riteneva che l'umorismo, intendiamoci, non è tanto l'umorismo, è l'umorismo rabbioso. Quello di Flaubert, l'umorismo rabbioso e pieno di scherno, fosse una sorta di pianta, no? A cui bisogna sottoporre qualsiasi cosa, perché per capire il senso della vita bisogna capire che siamo tutti, mi viene in mente il verbo, questa espressione, piallabili dall'umorismo. Vorrei dire questo pensiero, che perché una persona di ingegno, parlando di cose serie, scherza così spesso, in certi casi? Perché nulla è sacro, perché nulla nella sua sostanza è sacro, perché tutto può essere sottoposto alla pialla di questo umorismo, no? E se te ci pensate, l'avevo detto che la letteratura poi ci serve a ridere oltre che a gustare di se stessa, insomma. Ci sono anche degli aspetti su cose tragiche, che però viene in mente di rilevare, insomma. Questo Papa, io una volta parlo del Papa, questo Papa si è presentato, persona molto colta, molto figlia, non c'è alcun dubbio, insomma, anche con degli aspetti apertamente un pochino effeminati. Il Papa precedente era storico, faceva sport, proprio a questo gli è capitata la grana della pedofilia. No, se ci pensate, insomma, proprio a questo gli è capitata. Ma se noi vediamo il decorso della vita di una persona, vediamo che tutto, e qui ha ragione Flaubert, tutto poi diventa umanamente miserevole, per così dire. Oggetto di compassione. Queste osservazioni li faccio a latere di questo discorso, in cui vediamo Frédéric in una specie di épanchement di tutte le sue debolezze, perché lì, insomma, quando voi sarete più grandi, vi troverete alla mare delle persone sposate e parate, uomini o donne, quindi persone impegnate. E la cosa è drammatica, perché dover avere un rapporto con una persona impegnata comporta difficoltà inenarrabili. Il tornare a casa, il pulirsi la bocca, il togliersi le docce antiadulterio, togliersi gli odori di dosso, i profumi di dosso, le palle incrociate, gli appuntamenti. È una specie di odissea, quella in cui l'amante di una persona impegnata viene a trovarsi. quindi uno confida enormemente nel fatto che il rapporto fra i due coniugi, o comunque i due fidanzati, le due persone, si rompa. Però, se per esempio c'è un'infrazione, tu hai una donna, c'è un'infrazione del marito, approfittarne bassamente e diceva, ah sì, è un bastardo, questo può produrre tanto effetto, che lei dica, ma sì, questa comunque è right or wrong is my country, quest'uomo è comunque mio, quindi io lo difendo, e allora bisogna giustificarlo, però non troppo, perché se lei ci sta la giustificazione eccessiva, la tua chance l'hai perduta, è chiaro? Ed è quello che sta avvenendo qui a questo punto del romanzo. Perché a un certo punto dice, in fondo dice lui è un buon ragazzo, lo proteggeva così, lo difendeva così, nella maniera più vaga che potesse trovare. E mentre la compiangeva, si rallegrava. Si dilettava in fondo al cuor suo. Per vendetta o bisogno d'affetto, ella si sarebbe rifugiata in lui. La sua speranza, smisuratamente accresciuta, rafforzava il suo amore. Mai ella gli era sembrata così attraente, così profondamente bella. Di tanto in tanto, un respiro le sollevava il petto. E i suoi due occhi fissi sembravano dilatati da una visione interiore e la bocca rimaneva socchiusa come per esalare l'anima. Qualche volta vi appoggiava sopra fortemente il fazzoletto e lui avrebbe voluto che quel pezzettino di stoffa inumidito di lacrime, avrebbe voluto per sé quel pezzettino di stoffa tutto inumidito di lacrime. Suo malgrado guardava il letto in fondo alla stanza, immaginando la sua testa sul guanciale, e vedeva il tutto così bene che si tratteneva dal non prenderla fra le braccia. Lei chiuse le palpebre, pacificata, inerte. Allora lui si avvicinò e chino su di lei esaminava avidamente il suo volto, uno strecchiolio di stivali risuonò nel corridoio, era l'altro. Sentirono chiudere la porta della stanza. Frederick domandò con un segno, con un cenno, a Madame Arnaud se doveva andar via. Lei replicò sì, allo stesso modo, e quel muto scambio dei loro pensieri era come un consenso, un principio di adulterio. Come di questo capitoletto è come si comincia a tradire. Allora rivediamo questo capitoletto e lui quindi la difende in maniera vaga, e di questo abbiamo detto, ma dentro di sé naturalmente quando per esempio si incontra una persona sposata e che abbia figli e tu hai un desiderio nei confronti di una persona sposata, un piccolo segno che vi dico, ricordatevi questo che il professor Guaraldo vi dice per la vostra futura esperienza adulterina. Quando chiedete notizie di com'è la famiglia, e una donna dice, con i miei figli è meraviglioso, cioè antepone i figli al marito, quello non si. Se poi dice, con mio marito abbiamo delle personalità molto diverse, però questo è molto stimolante. Attenzione, quello è meraviglioso. Stimolante vuol dire che litigano. E il litigio naturalmente più di tanto non può essere sopportato. Se poi la persona mi dice io sono molto legata alla famiglia, ho un grande senso della famiglia, la mia famiglia è tutto, è fatta. Cioè, non è sì, che il suo dovere sia soprattutto. Naturalmente queste cose le si sa quando si è vecchi e morti nella vita, ma un ragazzo non le sa, e quindi si barcamena esterno. Una cosa, una delle squisitezze luminose dell'educazione è che racconta la storia di un giovane. Infatti il sottotitolo del romanzo non è storia di un uomo, ma è storia di un giovanotto. Questo ve l'ho già detto, credo. Quando il romanzo finisce, lui è un ragazzo, cioè non è più un ragazzo, ma oggi come oggi uno che ha 44-45 anni, quindi non è nemmeno la maturità di un uomo. La maturità un uomo ce l'ha, maturità in tutti i sensi, anche ottica, sessuale, 50-55 anni, ma ci hanno detto prima. E una volta ce l'ha tra 40-45, oggi, come oggi. Ma anche allora 40-45 anni è un'età giovanile, insomma. Però dopo a Flaubert non interessa più quello che succede, perché interessava raccontare la storia di un giovane, quindi le emozioni che vengono raccontate sono ascrivibili a un giovane, a un giovane. E diciamo che si può scherzare meglio sulle emozioni di uno che è imbranato, che non sa ancora come vivere. Questa parola imbranato ve l'ho già detto, ma mentre vi sto parlando mi rendo conto proprio che è una parola romana, ma che è molto efficace per capire come è lui. E allora, per vendetta o bisogno d'affetto, si sarebbe rifugiato verso di lui. Cioè, non ce la fa, allora uno conta naturalmente sulle. Ecco, per vendetta o bisogno d'affetto, guardate che le due cose funzionano perfettamente. Cioè, uno vuole vendicarsi del consorte Fedifrago e al tempo stesso comincia a sentire un grande bisogno di affetto. Una delle parole, per esempio, che servono di più nelle pratiche adulterine, questo è quello di sé, insomma, che sono cose utili da sapere, è la parola tenerezza. Ecco, se voi dite a un uomo o a una donna, tu hai un grande, con la mia serie naturalmente, hai un grande bisogno di tenerezza. Guardate che questo funziona in modo meraviglioso. Le giovani donne hanno bisogno di tenerezza. Tutte. Nessuno dirà, ah, io smanio per avere rapporti sessuali, ma tutte diranno che vogliono essere capite. Tutti. C'è una specie di plotone nel mondo infinito di donne che vogliono essere capite e di mariti che ritengono di non essere capiti. No. A questo punto la tua speranza cresce e qui vediamo una scena delicatissima e difficile da analizzare. Lei piange. Piange. Questo pianto è un pianto sommesso che si nota come sapete, come tutti quanti sappiamo, dal respiro. No? Sospiro. Questo sospiro, però, non è detto solo per indicare che lei sta singhiozzando in modo molto contenuto, ma per indicare il seno che si alza. Perché Flaubert è spietato col corpo femminile, nel senso che vuol metterlo in rilievo nella sua carnalità tutte le volte che lui, quindi le tette che si alzano, sono qualcosa che lui vede con spirito di desiderio e di ferocia al tempo stesso, anche se sta raccontando del fatto che sta piangendo. Ma questo sospiro che alza il petto comunque è unito a un elemento che riguarda, che abbiamo già trovato, ma poi lo troveremo ancora, un elemento strano, che sono gli occhi fissi. Gli occhi fissi. Che cos'è che denota l'intelligenza di una persona? Che è il suo tratto? Beh, possiamo dire che è un quadro mobile. No? Tu ti rendi conto della mobilità, dello sguardo su una persona intelligente o no. Io che faccio questo mestiere da tutta la vita, quando vedo le vostre facce, allora vi faccio, dico, ma lei non sta attenta, eccetera, eccetera, è perché vedo una forma di, a volte, mi è capitato, solidità, come dire, metafisica, la discemagine trascendentale. A volte invece mi sembra di vedere un luccichio inesausto di attenzione e intelligenza. Certamente gli occhi fissi non depongono a favore dell'intelligenza. Vi faccio un esempio piccolissimo. I volatili, i polli. Lei per esempio ha una frequentazione, sia pur sporadica, con i polli? No. Chi è che di voi ha una frequentazione, sia pur sporadica, con i polli? Forse lei ha una frequentazione con i polli? Scampagna, avrà una sua tenuta? No. Chi è che ha frequentazione dei polli? Lei? Troppo. Non è vero? Si vede molto, non è vero? Però io allora, siccome affettate, come fate spesso voi, un po' con le chiappette strette, perché ho una frequentazione con i polli. Come hanno gli occhi i polli? Fissi. Provate a stare vicino a un pollo. Per un certo tempo. E guardate se il pollo muta fisionomia. Questo è un discorso interessante. La fisionomia del pollo. Il pollo non muta. No, se andate a vedere, passiamo a un altro genere di. Mi sarà accaduto in montagna, per esempio, le vostre parchette, vai in montagna di voi? Qualcuno va in montagna? Lo fa nessuno, va tutti a mano a andare. Dove è andato? Lei non va da sua parte. Lei la strada storica. Dove piace? Alla montagna c'è qualcuno che dice, in montagna, credo, ci sono i buoni. Allora, parlatemi degli occhi dei buoni. Come sono gli occhi? Sono immobili, sono fissi. Vedete? Come sono gli occhi di Brahma? Sono fissi. Questa immagine di pesantezza, questa sottigliezza sono bellissime. Questa donna che non la dà, per usare un'espressione che conoscete tutti, che è potente, è vile questa donna che non la dà. Vedete, tutti sorridete per esorcizzare la frase. Questa donna che non la dà, noi sappiamo benissimo cosa vuol dire. Perché quella è un complemento oggetto, noi sappiamo benissimo la parola che potremmo mettere al posto di complemento oggetto. Va bene, questa cosa che non la dà, che è pesante, che ha gli occhi fissi. Vediamo che dicessero, tu avrai un amante meraviglioso. Hai capito? No? Non capisco. Davanti meravigliosa. Aspettate. Ah sì, dici tu come parla? Parla in modo meraviglioso, sa 5 lingue. Anzi parla con una lingua la mattina, poi verso le il tedesco arriva a sera, io uso qualche volta di nuovo. E tenera? A questo punto, per amico, c'è un piccolo dettaglio, un piccolo verone, un nero. Quale? Ha gli occhi fissi. Vedi tu, si muove tutto. No, riflettici. Ha gli occhi fissi, non li muove mai. Ma come non li muove mai? Non batte più. Non batte le palle. Ma di notte? Forse è un'intelligenza da computer, di stupidità trascendentale, ma quello che a noi piace è il palpito della vita intellettuale delle persone, no? È vero? Uno sceglie una donna perché è bella? No! E se è piatta completamente? Bella! Se hai denti all'infuori? Bella! Ma si sceglie perché cosa? Per le sue virtù spirituale, intellettuale, che si manifesta attraverso gli occhi che si muovono. Le parli, forse voi non sapete cosa sono le bandi, perché le bandi, adesso ve lo spiego, sono delle bambole. Le bambole sono delle bambole. In Svezia lei non le sa cosa sono le bambole. E cosa hanno fatto gli inventori delle bambole? Le sopracciglia hanno un uomo degli occhioni. Fanno un uomo degli occhioni. Vedete che l'uomo degli occhi è fondamentale. Questo è per fare. Se avesse le bambole di un altro tempo, antiche, non avrebbero gli occhi fissi così. Ma per renderle più seducenti muovono gli occhi. E allora tutto questo discorsetto fa sì che noi vediamo che lui si sta prendendo gioco di Madame Arnoux, rappresentandola come una sorta di mucca. Capite? Con gli occhi fissi, giusto appunto. E cosa fa? Lei rimane con la bocca schiusa. Anche cosa ho fatto con la bocca schiusa? È naturale che lui con la bocca schiusa. Va bene, è naturale. È naturale, io con la bocca schiusa. Va bene. Ma se tu hai la ragazza che rimane sempre con la bocca schiusa, tu fai cosa? Ma che faccio ad esempio? Tu vai a tua ragazza e stai dicendo che la vedi. Sei molto colpito. Se tu passa un po' di tempo tutti morti, tutto con la bocca schiusa, a un punto vedi gli occhi fissi, a un certo punto la chiude la bocca, non riesci più. E ha questo fazzolettino che mette a contatto il corpo. E naturalmente lui con grande ingenuità che cosa pensa? Pensa che quel fazzolettino lo vorrebbe tutti gli amanti, vogliono gli inventi. Tutti cercano di tantire tutti di reggiseno, gli amanti veri naturalmente, non per dire. Lei che sta facendo con quelle strane evoluzioni in ginocchio? Il problema è che dà un po' fastidio. Il fatto che faccia queste evoluzioni ginocchio. Sto cercando di sedere. Ah, questo mi pare molto ragionevole. Questo mi pare splendidamente ragionevole. Questo mettersi il fazzoletto sugli occhi, sulla bocca e sugli occhi, tutto questo, lui pensa, e forse è l'unica cosa che riesco a conquistare, un pezzettino di stoffa. Lei intanto ormai pacificata, rimane con le palpebre chiuse, pacificata, dice appunto, a pesi inerte, e a questo punto lui ci prova. Si china sul suo viso, ma come per un culto teatro, in quel momento si sente che arriva il marito. Come è indicato il marito? L'altro. Finora non è mai stato indicato come l'altro, ma da quando lui comincia a sentire questa storia d'amore come possibile, il marito diventa automaticamente l'altro. E allora c'è questa scena mirabile che fra i due, vedete, quello che lega due persone è la complicità. È il sapere che c'è un'intesa fra voi due che nessuno conosce. Mettiamo che la scena avvenisse diversamente. Cioè, mettiamo che lui chiede a lei, devo andarmene? E lei risponda, sì, è meglio che me ne andiate. Voi sentite come tutto è appiattito nella durezza del dialogo? Invece il problema è raccontato così. Lui chiede, devo andarmene? E lei replicò, e replica sì per l'appunto, ah no, ecco, ragionatore. Quindi lui chiede se deve andarsene, ma con un segno. E lei risponde con un segno. È come se il linguaggio dei segni, che consente di dire moltissimo, consente di dire molto più di quello che le parole concedono, che le parole permettono. È come se il linguaggio dei segni fosse entrato e fosse entrato fra di loro, fosse diventato il loro personale linguaggio. E a quel punto a quel punto lui capisce che c'è già qualcosa tra di loro. In realtà tra due amanti non sono necessarie molte dichiarazioni. È necessario che si crei una certa atmosfera. E questa atmosfera, se viene condivisa da entrambi, diventa un colorante. Quindi uno può in teoria non dire mai la frase fatidica il ti amo, ma anche delle frasi similari. E avere un rapporto fortissimo. Ci sono persone che per motivi di convivenza sociale, di vario genere, non hanno mai detto parole eccessive, ma il loro rapporto è stato formidabilmente alto. E voglio trovare a questo punto nella storia d'amore, una delle storie d'amore emblematiche della letteratura mondiale, che è quella di Romeo e Giulietta, un punto negativo. Ne parlavo con una mia molto cara amica e collega, che è la professoressa Guardamani in inglese. Romeo e Giulietta è una commedia giovanile di Shakespeare, anteriore al 1600. E c'è un errore, ne parlavo con lei, che è un'esperta di Shakespeare, c'è un errore, secondo me, di dicevo lei consentiva questa ipotesi, di Romeo e Giulietta. Che il sentimento non solo non si esaurisce nelle parole, ma può essere perfino guastato nelle parole. Quest'amore è troppo detto, l'amore di Romeo e Giulietta, da parte di lui e da parte di lei, per poter sconvolgere fino in fondo. È vero che il teatro ha bisogno di parole, naturalmente, ma ha bisogno più ancora di atmosfere. Questo parlare in modo enfatico del proprio amore può essere insufficiente, mentre avere dei segni che si stabiliscono, Stendhal questo l'aveva capito perfettamente, l'amore, per chi aveva seguito un corso, qualcuno di voi l'aveva seguito sulla Chartreuse de Parme, ecco, per chi ricorda un corso che avevo fatto sulla Chartreuse de Parme, i due amanti comunicano con dei segni, e i segni sono molto più esplicativi. Andiamo dal 21, passiamo alla pagina successiva e dobbiamo semplicemente raccontare quello che sta succedendo. L'amore si va in dubbio, se l'altro non ti dà il consenso, uno non può amare da solo. Questo vale per esempio anche, dice Flaubert dopo, per i rapporti sessuali. Cioè, se non c'è una disposizione da parte dell'altro, tu sei impedito. Cosa fa l'amante che non trova una strada libera davanti a sé? Può andare altrove, naturalmente, può cercare un'altra persona. Oppure può ammalarsi. E questo è il caso di Frederick. Si ammala diventando una sorta di parassita. Come non... Non mi interrompete, scusate. Diventa una sorta di parassita. Cioè vive a contatto di questa famiglia. E sentite proprio che cosa racconta. Dice allora, senza bisogno che intitoliamo a questo un capitoletto a parte, salvo un pezzettino che poi vi indicherò come... Venturis, perché è una bella frase, un bel concetto che vorrei che aveste davanti. Allora, disse, lui cominciò a frequentare sempre la casa e quando c'era qualcuno che era indisposto, lui arrivava lì tre volte al giorno per sapere come stava. E poi se c'era la bambina capricciosa, che mi ricordo di dare una sberla, la bambina che era capricciosa, no, lui ai suoi capricci acconsentiva. E sedeva ai pranzi, pensate, di lui e a nome della moglie, e questi pranzi erano come molti pranzi coniugali che voi avete veduto, spero nella vostra famiglia, pranzi silenziosi, quando il marito o la moglie guardano insieme la televisione per non parlare, perché la televisione da questo punto di vista serve moltissimo, avete presente quello che vi sto dicendo, quando uno legge il giornale, no? Cioè, tutta la tragedia del matrimonio, lei va questa, che tu sei costretto a stare assieme a una persona che avevi scelto magari inizialmente perché andava bene, in piena buona fede, ma per tutta la vita. E allora lui guarda questo silenzio coniugale ostile, perché poi diventa ostile quando per esempio uno dei due comincia a dire: ma che cosa c'è? C'è qualcosa oggi che non va? Naturalmente tu lo diresti: cosa dovresti dire oltretutto se non c'è nulla di particolare che non va? Nulla, ma tutto non va per altri aspetti. E quando lui se ne va da tavola, a lui se ne va, allora lei comincia a lamentarsi di lui. A lamentarsi di lui è quello che ne rimane. Ed è sempre questo spiraglio di fortuna, di possibilità che lui aspetta dai lamenti di lei nei confronti del marito. E poi guarda lui e vede che lui è giovane. Un problema di una donna è l'età. È un problema immane. Diciamo che questa, la donna non ha un problema di età proprio fino ai 32, 35 anni. Poi, ai tempi di profeta, molto prima, poi comincia ad averlo. Se le capita di amare una persona che ha meno anni di lei, è una tragedia, perché gli uomini invecchiano molto dopo. E quindi si sentono scartati. Sentono che il loro rapporto, che peraltro è felice adesso, poi non sarà più felice perché lui guarderà delle donne giovani. È una specie di tormento, infatti. Lei dice, continuamente lui dice: voi siete giovani, sposatevi. Perché lui dice? Per bontà? No. Perché questa situazione non va bene. Noi parliamo spessissimo con metafore, no? Quando lei dice sposatevi, perché io non voglio dire uguale, non voglio più stare in una situazione così disagevole in cui non posso avervi perché io sono una signora sposata e voi siete troppo più giovani. Noi parliamo per metafora, per esempio pensate alla metafora che viene detta continuamente, in momenti di disperazione, quando uno dice vorrei morire. E chi di voi l'ha detta una frase del genere? Non l'ha pensato. Cosa vuol dire vorrei morire? Vuol dire uguale. Vorrei non essere più in questa situazione così dolorosa. Perché nel momento stesso in cui la persona che dice vorrei morire dice se ecco qui una pistola per spararti, la persona avrebbe molte difficoltà. Allora, alla fine lui pensa sposarmi, ma come faccio a sposarmi? Perché il punto è questo, che l'amore blocca, nel senso che non lo si può dividere con altre persone, con una torta, amo un po' questo, amo un po' quell'altro, ma nemmeno per idea. E quindi se uno è innamorato di una certa persona, non può innamorarsi di un'altra, e gli dice amare a me, gli dice come faccio? Per me è possibile. Ecco che sono molte donne che attaccano all'uomo, per esempio, che lo amano ancora e hanno un legame nei confronti, dei suoi confronti per cui non riescono a trovare nessuno. E allora sentite questa frase che dice Flaubert, questo è il capitoletto 21 bis, lo trovate proprio nella pagina del fianco e comincia con l'action pour certains hommes. L'avete trovato? Sì. Che pagina è? 193. E semplicemente queste poche righe voglio leggere. L'azione per certi uomini è tanto più è inazionabile, è altrettanto impraticabile, quanto più è altrettanto impraticabile del desiderio più forte. La sfiducia in se stessi li imbarazza, il timore di spiacere li spaventa. D'altronde, gli affetti profondi rassomigliano alle donne oneste. Hanno paura di essere scoperte e passano la vita intera con gli occhi bassi. Guardate questo bellissimo pensiero. Questo bellissimo pensiero, fra l'altro, che è una specie di sentenza moralistica, ci fa pensare quanto la cultura francese moralistica, quella che si esprime con aforismi, no? Che si esprime con massime, con sentenze, quella della Rochefoucauld, che intendoci di La Bruyère, quella dei grandi moralisti del Seicento, fosse vivissima nell'Ottocento. E quindi Flaubert mi attinge spesso a queste grandi sentenze e dice così: l'azione, per certi uomini, è allo stesso modo impraticabile che il desiderio più forte. Cioè, quando tu non riesci ad agire, sei paralizzato nell'azione. Mi sarà accaduto in molti casi. Ricordo un caso recente di un fratello con un altro fratello che aveva perso la moglie. E il vedovo, il neo vedovo, aveva chiesto a suo fratello di dargli la mano. Il fratello non è che non gli volesse bene, era stato abituato a un riserbo tale nei gesti, negli atteggiamenti, che sia pure in un momento estremo come questo non gli diede la mano. Ci sono persone che sono incapaci con i genitori, ma anche con il fidanzato, lo sposo, la sposa, di fare dei gesti affettuosi. In alcuni l'azione diventa impossibile. Molti sono rovinati e si rovinano la vita perché non osano. E qui aggiunge il problema. Perché sono sfiduciati in se stessi. Sono sfiduciati pensando, vabbè, ma se io poi agisco, ma sarò accolto? E allora nella paura di non essere accolto, non agisco. Il timore di dispiacere, pensate quante volte voi vi sarà accaduto, a meno che non abbiate un senso di voi stessi molto forte, quante volte vi sarà accaduto per timore di fare una brutta figura, di non dire il pensiero magari affettuoso o innamorato che avevate nei confronti di qualcuno, perché temevate di non essere accolti. D'altronde, gli affetti profondi rassomigliano alle donne oneste. Ci sono delle donne, le donne oneste, hanno paura di essere scoperte. Hanno paura perché non riescono a gestire, per così dire, la loro nudità, la nudità della loro anima. E quindi passano la vita intera con gli occhi bassi, così come certi affetti profondi non vengono mai rivelati. Oppure vengono rivelati solo molto dopo, attraverso magari lettere o per interposta persona.